Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 30 aprile, buongiorno e bentornati a tutti su Liberi Dentro ed Uradio, in onda su Radio Città Fujiko, su Teletricolore, su Lepida TV, e bentornati a tutti i nostri ascoltatori e anche ai nostri ospiti in redazione. Parto da Antonella Cortese, che è la mia collega, buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E a Ignazio De Francesco, buongiorno Ignazio. Buongiorno, diciamolo anche in arabo, oggi venerdì, salam aleikum, ahlan wa sahlan wa marhaban a tutte e a tutti. E oggi vi leggo un articolo da Antigone, a firma di Patrizio Gonella, che è anche il presidente di Antigone, Il canto delle carceri sarde, perché un disco e un libro ci portano dentro le prigioni di questa bellissima terra, che è la Sardegna, una terra dove Joe Perrino, rocker, e Don Ettore Cannavera sono due volti bellissimi che ci raccontano anche il fatto che la Sardegna è una terra molto difficile per la prigionia. E perché? Perché finire in carcere in Sardegna non è come stare in continente. C'è l'isolamento forzato, determinato dalla lontananza, dalla difficoltà di tenere in piedi i legami affettivi. La Sardegna è un tempo perché venivano reclusi terroristi e mafiosi, ora perché è luogo privilegiato di trasferimento degli stranieri provenienti dalla terraferma, tende ad assomigliare più che altro a un confino. E una presenza, vi dico solo questo dato, c'è una presenza di 78% di detenuti stranieri contro una media nazionale del 32%, quindi siamo dati altissimi. Ed è straordinario il viaggio che ha fatto Joe Perrino, vi dicevo per l'appunto questo rocker cagliaritano che ormai ha 18 dischi sulle spalle, che ha dato vita a questo progetto di recupero di una tradizione musicale che nasce all'interno delle sbarre. Quindi raccogliendo, tramandando racconti di vita, gelosie, lamentele, sogni e frustrazioni attraverso le musiche. Lui è andato a recuperarle, queste musiche, questa musica galeotta che fino ad allora non aveva mai avuto occasione di essere scritta e raccontata. E quindi ce n'è una, per esempio Annuncio Ritardo, una canzone che racconta la storia di un ragazzo che dalla Sardegna finisce a Milano e gli va male la sua vicenda di vita a causa dell'eroina, per esempio. Oppure Ricominciare, che è un brano che è un riassunto di emozioni di vita carceraria, la paura del dopo, il dolore, la non rassegnazione, la naturale ricerca della felicità. Ma vi dicevo, c'è anche un libro che ci racconta il carcere ed è un libro scritto da Sergio Abis. Il titolo è Chi sbaglia paga, edizione Chiare Lettere, dove Abis racconta le lettere scritte in un ampio arco di tempo dai detenuti a un sacerdote, Don Ettore Cannavera, fondatore della comunità La Collina a Cagliari. E questo è un esempio positivo di detenzione, perché Don Ettore ha fondato questa comunità di recupero per persone detenute e raccogliendo queste lettere lo scrittore ha voluto raccontare insomma anche questo sentimento di gratitudine e soprattutto per questo progetto di pena e di misura alternativa alla detenzione. Quindi è un libro che tocca le corde di chi tante ne ha lette e tante ne ha viste, come appunto Don Ettore. Ma adesso do la parola a te, Antonella, perché ci parli di natura in Africa. Sì, infatti, oggi vi parlerò di un animale molto conosciuto e importante per l'ecosistema africano, il leone, e soprattutto il leone nella sua vita sociale. Tutti in realtà immaginiamo il leone come l'indiscusso re della savana, ma chi tiene in piedi la società leonina in realtà è la leonessa, che procura il cibo e alleva i piccoli praticamente da sola, anzi in comunità con le altre leonesse. C'è da dire che il più temuto di tutti gli animali del nostro pianeta però sta vivendo un drammatico declino. In Africa sopravvivono meno di 20.000 leoni, poiché negli ultimi decenni i leoni si sono estinti in ben 12 paesi subsahariani. Scomparso ormai da tempo dal Nord Africa, il leone è in via di estinzione nell'Africa occidentale, dove rimangono poche centinaia di individui nelle aree protette. Per fortuna in Sudafrica si sta espandendo grazie a progetti di ripopolamento funzionali anche all'ecoturismo. Chi minaccia il leone? Indovinate un po', l'uomo, ovviamente, che devasta il suo habitat, importa malattie, abbatte centinaia di esemplari l'anno con la caccia illegale. Ma chi sono i leoni e come vivono? I leoni sono grandi carnivori, lo sappiamo, mangiano preferibilmente zebre, bufali e antilopi, ma in caso di necessità possono integrare la loro dieta con le verdure. Sì, è strano, il leone potrebbe anche essere quasi vegetariano. Infatti ci sono i leoni del deserto del Kalahari che mangiano buone dosi di zucche selvatiche anche per dissetarsi. Parlavamo del leone maschio, che non è soltanto un pessimo cacciatore perché alla caccia provvede la femmina, ma è anche uno scarso amante. I suoi accoppiamenti, per quanto frequenti, durano una manciata di secondi. Certo, il suo ruggito è imperioso ed è un importante sistema di comunicazione tra simili. Può essere udite, pensate, fino a 8 km di distanza e permette di mantenere la relazione con tutti gli individui del branco. Avete capito che il leone, a differenza degli altri felini, è un animale sociale, organizzato in branchi che normalmente vanno da 3 a 12 di individui, ma che in casi eccezionali possono superare addirittura la trentina. Quella del leone è una società matriarcale fondamentalmente e il cuore del branco non è altro che una famiglia allargata di femmine, tutte imparentate tra loro, zie, nonne, cugine, insomma, e difficilmente accettano altre femmine soltanto quando in effetti il loro numero si è abbassato troppo. Poi la femmina allatta, accudisce tanto i propri piccoli quanto anche i piccoli delle altre femmine e quindi è una società molto solidale da questo punto di vista. C'è una cosa molto impressionante però della società leonina ed è il cosiddetto infanticidio. Sapete che il leone dominante, quando entra in una società diversa dalla propria, una famiglia diversa, tende proprio a mangiare, a divorare i cuccioli. E lo fa proprio perché la natura deve premiare il più forte. Lo so che è una cosa brutta, ma funziona così. E intanto passiamo dalle mamme leonesse a una cantante che si chiama Miriam Makeba, Mama Africa la chiamavano, che ha avuto una grande importanza in Sudafrica proprio per l'impegno politico contro l'apartheid e anche per essere stata delegata delle Nazioni Unite. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, sulle note musicali di Mama Africa, Pata Pata. Do la parola a te, Ignazio, perché diciamo che c'è un ponte di collegamento tra quella che è tutta la tua esperienza nelle carceri, in carcere in particolare qui alla Dozza di Bologna, e i tuoi viaggi nel Mediterraneo. Ed è questo viaggiatore ante litteram Ibn Battuta, vero? Certo, Caterina, diciamo che questo personaggio che, ricordiamolo, uscì da Tangeri, era mi pare il 1325, qualcosa del genere, aveva 21 anni e partì per andare a fare il pellegrinaggio, santo pellegrinaggio dei musulmani. Quando ha messo il piede fuori casa ha detto, ma chi me la fa fare a tornare indietro? È stato fuori 25 anni, ha viaggiato mi pare 1.200.000 chilometri, il corrispondente di 44 stati, e ha lasciato un diario di questi viaggi che è un po' il corrispondente del milione di Marco Polo. Ora, è accaduto che quando ho iniziato a fare il volontario in carcere e ho iniziato a collaborare con il CPA, cioè con l'area pedagogica, il primo progetto realizzato lì è stato la lettura in arabo e in italiano del diario di viaggio di Ibn Battuta. Allora c'erano figure, le posso ricordare, la Fiorenza, c'era la Filomena Coglio, la Maura, ecco, queste insegnanti mitiche, ecco, che hanno costruito la scuola dei primi anni proprio del CPA, la scuola alla Dozza. E quindi leggevamo questo testo e abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa di scoperta del mondo, chiusi in una stanza con le inferriate. E questo dice quanto è anche la potenza dell'immaginazione umana. Certi giorni uscivamo di lì e diciamo: ma ragazzi, ma non siamo mica più in carcere. Oggi, attraverso i viaggi di Ibn Battuta, siamo stati in India, siamo stati in Cina, siamo stati alle Maldive. E l'uomo è più libero di qualsiasi costrizione. Ignazio, tu continui a parlare di Ibn Battuta anche in un programma che metteremo in pista tutti i venerdì. E ci vuoi parlare un attimo di questa rubrica? Sì, direi che tra l'altro è venerdì, quindi tra poco la si vede. È collegata a una prima parte dove abbiamo Hamdan al-Zekri, che è il rappresentante del Lukoi per il dialogo interreligioso, un musulmano yemenita con cui sono grande amico, che pensate, ha persino preso una laurea in teologia cristiana. Quindi una persona che è un musulmano, vero musulmano, predica in moschea, fa il volontario tra i musulmani di Soliciano, il carcere di Firenze, ma nello stesso tempo dice: voglio scoprire anche la cultura cristiana e cattolica. E allora l'idea è stata quella proprio di coniugare in un'unica rubrica la parte in cui lui parla più come uomo di religione. Va bene, i musulmani sono 1,5 miliardi, 1,7 miliardi, cioè l'Islam ha i suoi dogmi, la sua religione, la sua fede, è una parte di questo mondo, ma possiamo dire al tempo stesso che l'Islam è parte di una civiltà, la civiltà del Mediterraneo, nel bene e nel male, i suoi problemi, le sue bellezze, i suoi nodi, i suoi drammi. E quindi allora Ibn Battuta, accanto a Hamdan al-Zekri, ci aiuta a fare grand'angolo. E questo voglio dirlo perché abbiamo parlato anche di radicalismo. La strettezza religiosa nasce quando si fa zoom sulla propria religione, una piccola cosa che diventa il tutto. L'Islam diventa il tutto, il cristianesimo diventa il tutto, l'induismo diventa il tutto. E invece grand'angolo fa vedere che il mondo è molto più grande. E in questo la lezione è quella di Ibn Battuta e del suo diario. Grazie Ignazio, e allora a conclusione della nostra settimana, oggi sapete venerdì, noi ci rivediamo coi buongiorno di Liberi Dentro lunedì, tra poco l'ospite, quindi restate con noi e a metà della nostra mattinata lanciamo sempre Johnny Cash, Man in Black, una canzone di protesta. Man in Black è l'uomo in nero, lui veniva chiamato così, l'uomo in nero per come si vestiva sul palco, un brano del 1971, ascoltiamolo. Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con la nostra ospite Maria Inglese da Parma. Buongiorno Maria, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, continuiamo con te questo percorso sulle figure dell'istituzione carceraria che si dovrebbero occupare della cosiddetta rieducazione. E a quanto dice l'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, nei confronti delle persone condannate, degli internati, deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. E tra queste figure ci sono appunto gli agenti di polizia penitenziaria, tra i cui compiti, come sancisce proprio il regolamento, l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, c'è anche il partecipare nell'ambito dei gruppi di lavoro alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. E allora ti chiedo se effettivamente come avviene questo occuparsi delle persone internate da parte di queste figure. Allora, penso che sia molto importante che dedichiamo la nostra attenzione anche agli agenti penitenziari, che vorrei chiamare, appunto, visto che tu hai fatto riferimento all'ordinamento penitenziario, sarebbe bello chiamare anche loro operatori penitenziari, cioè sono parte del personale dell'amministrazione penitenziaria e vorrei pensare che siano anche loro degli operatori e quindi degli alleati anche nel percorso rispetto alla rieducazione e reinserimento. Allora, nella mia esperienza noi chiaramente siamo aree molto separate, c'è la parte sanitaria, la parte trattamentale e la parte della custodia, però devo dire che qualcosa sta cambiando anche nell'atteggiamento e nell'interazione appunto tra i poliziotti, la polizia penitenziaria e i detenuti. E mi viene da pensare che effettivamente ci sono dei cambiamenti. Molto banalmente, uno potrebbe essere questo, che essendo il carcere un luogo dove si sperimentano delle convivenze possibili, dove è anche necessario, no, insegnare o apprendere, più che insegnare, apprendere insieme, la convivenza è impossibile, pensiamo solo alla presenza di stranieri, quanti stranieri detenuti, quante lingue, quindi quante appartenenze diverse, ma anche quanta fragilità, dalla malattia fisica alla malattia mentale. Allora questa convivenza possibile avviene anche attraverso una relazione con i poliziotti, con gli agenti penitenziari. Mi viene da pensare ad esempio ai giovani poliziotti che escono dalla scuola e che vengono appunto in carcere a lavorare, che mi è capitato di incontrarli e di vedere questi giovani uomini a contatto con persone detenute da tantissimi anni, che potevano avere l'età dei loro padri o forse anche dei loro nonni, se vogliamo. Ecco, già questo sembra quasi una sorta di relazione inedita, sperimentabile, nella quale apprendere il rispetto e la fiducia, perché è una cosa che non si può insegnare teoricamente, la si sperimenta. Ecco, mi sembra che questa immagine di questi giovani poliziotti insieme a detenuti più adulti possa essere un'esperienza di trasmissione di fiducia e di rispetto. Interrompiamo un attimo la nostra chiacchierata con un brano musicale. Fabrizio Moro, Portami Via. Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è. Così com'è, imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via. Thank you. tu portami via. Quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia, tu portami via. E rieccoci, bentornati dopo aver ascoltato il brano di Fabrizio Moro, Portami Via. Stiamo parlando della figura degli agenti penitenziari, come dici tu Maria, come operatori nel piano di, della rieducazione delle persone internate. E però anche per queste, soprattutto direi per queste persone, la vita in carcere è molto impegnativa a livello psicologico, perché trascorrono anche loro tante ore all'interno nell'intento di sorvegliare e di essere comunque accanto anche alle persone che hanno sotto custodia. Quindi quali soluzioni anche per loro, per la cura di sé? Infatti sento una grande frustrazione nel personale della polizia, cioè questa frustrazione è legata anche al fatto che si trovano lì anche a dover fare dell'altro, forse qualcosa che non avevano previsto, no? E come dicevamo prima, cioè la presenza di così tante fragilità, così tante persone di provenienze diverse, no? Cioè esiste anche un disagio sociale che in un certo senso è concentrato in carcere e che si rispecchia forse anche nel disagio degli operatori. Qui mi viene da pensare che di fronte ad esempio al tema dello stigma e della stigmatizzazione, no? Che noi ad esempio studiamo e impariamo a trattare per i pazienti psichiatrici, cioè esiste anche uno stigma legato alla detenzione, al carcere, e a volte è lo stesso stigma che vivono poi anche gli operatori, cioè non lo vivono solo le persone direttamente interessate dallo stigma, ma lo stigma si vive anche dentro l'istituzione, in questo caso l'istituzione che controlla, no? che custodisce. Ecco. E allora per combattere lo stigma anche per gli operatori e quindi uscire da questo doppio rispecchiamento nel quale veramente ci si rimanda solo un'immagine negativa, non un'immagine piena di speranza, c'è da dire che una delle cose che abbiamo imparato è quella di avere delle altri luoghi dove rigenerarsi. Allora, per il detenuto questo è un po' difficile, lo si fa con alcune attività, lo si fa con alcuni interventi anche istituzionalizzati, penso alla scuola, al lavoro, no? Le attività culturali. Per i poliziotti, per gli agenti, penso che sia molto importante che loro scoprano come mantenere i legami anche loro, con le loro famiglie, ad esempio. Pensiamo che spesso gli agenti vivono separati dalle loro famiglie, famiglie d'origine o famiglie acquisite, quindi come mantenere il legame familiare, le relazioni amicali, gli scambi tra il dentro e il fuori, ancora una volta siamo sempre lì. Quanto sia importante che la comunità, la città sia presente nel carcere e quanto sia possibile per gli operatori uscire, nel senso di poter avere dei contatti con colleghi che lavorano in altri servizi, in altre istituzioni, avere supervisioni ad esempio sul loro lavoro, ma potendo appunto raccontare a qualcun altro e qualcun altro che sia lì ad ascoltarli. Penso che questo sia un modo per prendersi cura anche dell'istituzione, di chi l'abita e chi ci lavora. Grazie Maria, anche perché ritorna sempre questa commistione tra il carcere come quartiere e la nostra città, esatto, come comunità di anche accoglienza, e delle varie professionalità che vivono e operano nella città stessa. Ecco. Allora, posso chiudere con una citazione? Sì, assolutamente. Siccome pensando alla polizia ho pensato il lavoro, il tema del lavoro, quanto sia importante amare il proprio lavoro. E allora voglio suggerire una lettura, Primo Levi, sì. La chiave a stella, è un romanzo che parla appunto di quanto il lavoro possa essere soddisfazione, qualsiasi tipo di lavoro. Qui è la storia di un operaio che appunto, come si dice, mette i bulloni, e a un certo punto nel libro proprio si dice che se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra, e questo è un augurio, un auspicio, ce lo fa Primo Levi, che col lavoro, insomma, lui è sopravvissuto grazie al suo lavoro. Penso che dobbiamo augurare a tutti di amare e poter amare e svolgere il proprio lavoro con amore. E allora lancio un brano io al termine della nostra chiacchierata, Ed Sheeran, How Would You Feel? are the one girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs blue. Rieccovi, abbiamo appena ascoltato le parole della nostra Maria Inglese, psichiatra da Parma, che è con noi fin dal 18 gennaio, da quando siamo ripartiti con Liberi Dentro, e abbiamo parlato di questa figura importantissima degli agenti di polizia penitenziaria. Se però avete delle domande che non abbiamo affrontato, naturalmente il tempo non è mai troppo, e anzi è troppo poco, e scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E fra poco, sempre sull'Epida TV, mentre alle ore 17 su Teletricolore, ci sarà la rubrica tema di oggi con la spiritualità islamica e la cultura araba, ma ci sono rubriche anche per tutto il weekend. Quindi domani abbiamo la cappellania con il Vangelo della quinta domenica di Pasqua, poi il Teatro del Pratello e al termine una rubrica nuova, parliamo di buddismo. Mentre la domenica abbiamo il CPA, anche qui una rubrica nuova con School on Air, e poi a seguire la rubrica con Uomini e Storie, dove vedremo la storia di Franco Bonisoli. Buona giornata, buon fine settimana e noi ci rivediamo sempre qui su Liberi Dentro. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.